in primo piano. Buongiorno, buon giovedì da Giulia Crivelli, ultimo giorno dell'anno, quindi fin d'ora anche buon capodanno, buon fine d'anno e buon capodanno, anche perché domani non ci sentiremo, perché oggi i giornalisti della carta, Fortunelli, non lavorano, mentre lavorano naturalmente i colleghi della radio, e quindi domani i giornali non ci sono, però poi ci risentiremo sabato. E parto dal Sole 24 Ore oggi, particolarmente ricco sia di dati reali sia di previsioni per il 2016. Continuano le due iniziative di cui abbiamo parlato anche nei giorni scorsi, cioè da una parte la guida pratica alla manovra, ieri era dedicata alle novità per le imprese, anche oggi, ieri soprattutto sugli investimenti detraibili, oggi su tutto quello che riguarda il fisco più leggero per gli scambi con l'estero, poi lo vedremo nel dettaglio, comunque trovate tutto pagine 36 e 37. E poi il nostro manuale di educazione finanziaria che è arrivato alla settima puntata e lo chiamiamo anche il Salva Risparmio, è proprio un testo estraibile, tra l'altro, per chi volesse tenerle tutte queste puntate. Oggi è da pagina 27 a pagina 30 e in queste quattro pagine ci si concentra in particolare sulla tutela degli investitori e la soluzione delle controversie. E a questo proposito vi leggo l'inizio dell'editoriale del nostro direttore, nostro del Sole 24 Ore di Radio 24, Roberto Napoletano, che torna sulla questione delle banche, anche perché il titolo poi principale del Sole 24 Ore è Banche salvate, cessione al via, task force per gli obbligazionisti. Le banche salvate, naturalmente lo ricordiamo, sono Etruria, Marche, Ferrara e Chieti, le quattro banche incriminate. L'editoriale si intitola L'obbligo di fare, la forza della verità. C'è una sola cosa di cui tutti parlano e che va levata dal tavolo delle chiacchiere prima che le chiacchiere, che non sono fatti, diventino verità percepita e si trasformino in un reale aumento del costo del credito o, cosa ancora più preoccupante, in una reale diminuzione della sua disponibilità. Due fenomeni rovinosi allo stato ingiustificati. Di evidente impatto recessivo che la gracile ripresa italiana non si può consentire. Bisogna togliere dal tavolo le chiacchiere che accreditano un problema sistemico bancario. Occorre evitare che l'irresponsabilità diffusa con la quale si trasforma un problema che riguarda l'1% dei clienti di quattro banche locali che detengono complessivamente l'1% del totale dei depositi e comunque tutte e quattro rimesse in moto con soldi privati specificamente dallo stesso sistema creditizio italiano, diventi l'occasione quotidiana per lanciare ogni genere di allarme su ogni tipo di investimento finanziario. Si finisca con il costruire pietra dopo pietra tra manone finanziarie interessate, manine superficiali e prese di posizione politiche emotivo-mediatiche, quasi sempre immotivate e non meditate, un muro di paure e di dubbi ingiustificati capace di abbattere il cemento armato di un patrimonio che non appare al mondo, il risparmio degli italiani, e che ha nel credito e nella fiducia i suoi capisaldi. L'editoriale continua poi a pagina 19 ricordando anche l'altro editoriale che forse avevamo letto proprio insieme domenica 20 dicembre, che si intitolava Il dovere della trasparenza, il coraggio del banchiere, che in quel caso riguardava l'auspicata riforma dei fogli, la cosiddetta MiFID, fino adesso quei fogli che vengono consegnati agli investitori, e il direttore Napoletano si augurava in quel caso che diventassero invece di più semplice lettura, un po' come il bugiardino dei farmaci, cioè si legge, ci si informa, si decide, si firma. E non si deve essere preoccupati o angosciati da 7-10 pagine scritte fitte che poi si firmano comunque senza poi magari sapere a che cosa veramente abbiamo dato il consenso. Ma vi dicevo, l'editoriale continua a pagina 19, ve ne leggo l'ultima parte. La voce della politica si levi con la stessa forza di quella di Ciampi di 20 anni fa. Sono in gioco la stabilità finanziaria e istituzionale. Uscire dal solco lucidamente tracciato da Mattarella per avventurarsi sul terreno delle soluzioni mediatiche può essere fatale alla politica e alla giustizia e, cosa vitale, all'economia di un paese che prova a uscire da una crisi infinita che ha prodotto danni come quelli di una guerra persa. Non possiamo permettercelo. Servono fatti alla voce trasparenza e alla voce educazione finanziaria e soprattutto occorre che arrivino presto e siano espressione di un fare comune e consapevole. E tornando alla prima pagina del Sole 24 Ore, vi segnalavo appunto l'apertura che è dedicata proprio alla vicenda delle banche, queste banche che, ricordiamolo ancora una volta, certo hanno fatto molto clamore, però come scrive il direttore Napoletano rappresentano l'1% dei risparmi, e Marco Ferrando, a proposito di emergenza, firma l'analisi Superare l'emergenza. Lì, per quanto riguarda gli scenari 2016, incentrati sull'Europa, uno di Adriana Cerretelli, Quante sfide per l'Europa senza bussola, iniziano entrambi a copertina del Sole 24 Ore, continuano a pagina 18, e poi La flessibilità e il rischio della trappola di Carlo Bastasin. A proposito di quella proposta di semplificare al massimo i documenti che devono essere letti e firmati da ogni investitore quando appunto decide di fare un investimento in banca, che siano azioni, obbligazioni secondarie, qualsiasi cosa, la proposta firmata in questo caso da Nicola Borzi comincia in prima pagina e continua poi a pagina 4, due pagine per spiegare i prodotti. Infine, visto che parliamo di clima e vedremo ancora tanti articoli sugli altri giornali sulle famose misure anti-smog, dal Sole 24 Ore un intervento di Kofi Annan, che è stato segretario generale dell'ONU, premio Nobel per la pace nel 2001, clima, il futuro inizia adesso, un'analisi appunto di quello che tutti i paesi possono fare dopo la famosa conferenza COP21 che si è chiusa 10 giorni fa a Parigi. La prima pagina del Corriere della Sera, dedicata, dicevamo, alle misure antismog, perché ieri è stato firmato, dopo questo vertice tra governo e comuni, una sorta di decalogo in cui si dettano alcune regole: uffici meno caldi, auto più lente, il patto antismog. In questo caso il commento di Gian Antonio Stella: il buon senso non basta più. La fotonotizia molto indicativa di un albero in fiore, una foto scattata ieri a Milano, quell'albero in fiore a Milano è la sorpresa di Capodanno. E l'articolo è di Paolo Di Stefano, è naturalmente appunto una foto simbolica. Forse non saranno tanti gli alberi in fiore in questo momento a Milano, ma ne basta anche soltanto uno per capire che è veramente successo qualcosa di strano in questo anno a Milano. Tra l'altro nelle pagine interne si spiega appunto che è stato l'anno più caldo da quando vengono registrate le variazioni del clima a Milano, con una media, pensate, di 16 gradi. La Repubblica fa la stessa scelta del Corriere, apre quindi sullo smog. Lo smog continua a salire via al piano anticonsumi, e poi naturalmente ci sono tutti i dettagli su questo piano. La fotonotizia però è dedicata, visto che Repubblica ha dato la notizia per prima ieri, a questo accordo raggiunto da Apple con il fisco italiano. In Italia pagherà 310 milioni di tasse evase / eluse, ma Apple non è sola. L'esempio di Apple adesso verrà seguito, probabilmente suo malgrado, da Google, che invece staccherà un assegno da 150 milioni. La Stampa, come a volte fa, ha una doppia copertina. La prima è dedicata allo speciale che poi c'è all'interno, Addio all'anno che ci ha colti di sorpresa, che riassume appunto uno speciale di 20 pagine che riassume un po' tutto quello che secondo la Stampa è giusto ricordare di quest'anno che si chiude oggi. E la copertina vera e propria invece, anche in questo caso, dedicata allo smog: velocità ridotta, 2 gradi in meno, questa l'idea soprattutto per gli edifici pubblici, ma anche quelli privati, anche se naturalmente è molto più difficile controllare mettere in pratica queste misure. Ecco il piano antinquinamento. In questo caso un'altra fotonotizia dedicata al clima, altrettanto strana come quella dell'albero in fiore a Milano. Qui è una seggiovia a Bielmonte, nel Biellese, che il problema è che sembra scattata in estate, perché la seggiovia è in funzione, ma sotto non c'è una pista innevata, ma semplicemente una collina che potrebbe essere appunto non verde, ma in questo caso marrone grigia, però sicuramente non un paesaggio invernale. L'editoriale è di Mario Calabresi, perché per Mario Calabresi questo è l'ultimo giorno da direttore della Stampa dopo più di 8 anni, e come forse sapete andrà a dirigere Repubblica a partire dal 14 gennaio per l'esattezza, ed è un saluto molto accorato soprattutto ai lettori. Ve ne leggo una parte, poi trovate il resto a pagina 25. E anche proprio una dichiarazione d'amore nei confronti dei giornali e soprattutto appunto dei loro utenti finali, cioè i lettori. Leggere un giornale significa appartenere a una famiglia, condividere riti, ripetere ogni giorno gesti istintivi, sapere dove cercare le cose, ridere, commuoversi, indignarsi, arrabbiarsi, ma soprattutto avere un compagno di strada. Dirigere un giornale significa rispettarne l'identità, avere a cuore la salute di questa famiglia di lettori e giornalisti, rinnovare e migliorare ogni giorno la casa e saper ascoltare. L'ho fatto per 6 anni, scusate, 6, non 8, 6 anni e 8 mesi, e oggi è il mio ultimo giorno da direttore della stampa. È stato un periodo lungo e felice in cui la crisi e le difficoltà sono state superate grazie alla passione e alla voglia di cambiare che ho condiviso con la redazione e con i lettori. E qui, insomma, un po' di complimenti anche giustificati. Calabresi se li fa, perché scrive: per fare un bilancio potrei partire dai conti tornati in attivo, e appunto, comunque lo fa, dai prodotti digitali che ci permettono di essere all'avanguardia nel mondo, dai tantissimi lettori che abbiamo conquistato su internet o dalla nuova sede che è la più moderna d'Italia e l'unica a contenere un museo. Invece partirò dalla cosa che più ha lasciato il segno dentro di me, il rapporto con i lettori, con la storia di questo giornale e con il suo territorio. E qui racconto un'esperienza, secondo me, davvero interessante. Non ricordavo, non so se l'avesse raccontato, io non ricordo che l'avesse raccontato, ma appunto Calabresi aveva incontrato gli abbonati storici della stampa e quindi scrive: l'esperienza più emozionante l'ho fatta alcune estati fa con il viaggio tra gli abbonati storici. Li ho intervistati uno ad uno e questo mi ha permesso di capire quanto la stampa sia nella vita e nella memoria di ognuno di voi. Chi mi ha raccontato che lo sfoglia partendo dal fondo, chi invece comincia dal buongiorno, chi dalla cronaca, chi dalle lettere, chi dai necrologi e poi chi non sopporta che qualcuno lo abbia aperto prima di lui e chi invece lo sbircia al bar ma poi se lo guarda con calma la sera. E trovate il resto di questo appunto. Arrivederci. Addio ai lettori della stampa, o anche arrivederci, insomma non è detto che chi legge la stampa non leggerà mai Repubblica, lo trovate poi a pagina 25 ed è, come dicevo, molto, almeno a me fa piacere leggere questo atto d'amore, ripeto, soprattutto verso i lettori, che dovrebbero essere il nostro faro continuo. Il Messaggero, come Corriere, come Repubblica e come La Stampa, apre sull'inquinamento, quindi piano antismog, ecco la stretta. La fotonotizia però è stata scattata a Times Square a New York, perché il Messaggero definisce questo capodanno come quello della paura, blindate tutte le grandi capitali. Sapete, soprattutto è tutto un po' iniziato da Bruxelles, ma molte altre capitali hanno seguito l'esempio di Bruxelles, e del resto tutte le capitali e le grandi città, anche in Italia sarà così, dove ci sono previsti grandi assembramenti o per concerti o per altre manifestazioni, avranno anche misure di sicurezza extra. Avvenire titola: nasce lo slow smog, e il riferimento è al fatto che uno dei provvedimenti annunciati riguarda un rallentamento obbligatorio delle auto a 30 km quando il livello delle polveri sottili supera i livelli di guardia per più di 10 anni. La fotonotizia però è dedicata sì al capodanno blindato nelle capitali, ma con un approfondimento sul fatto che, secondo l'Avvenire, i Balcani possono essere definiti inquieti, perché anche nei Balcani stanno prendendo piede le organizzazioni jihadiste più estremiste. Trovate l'approfondimento alle pagine 8 e 9. E poi c'è un dossier sull'Avvenire, tempo di bilanci, il 2015, se ne possono fare di positivi, è giusto farli, ma anche di negativi. Ieri abbiamo visto quelli sulla violenza sulle donne, che purtroppo non è diminuita, anzi, e oggi l'Avvenire invece ci ricorda come anche la pedofilia continua a essere una piaga molto difficile da estirpare. Bambini abusati, grida nel silenzio tra web e strade. C'è appunto questo dossier pedofilia che trovate all'interno dell'Avvenire. L'Unità ci invita all'ottimismo. La foto è la foto di un posto dove, per via del fuso orario, è già 2016, è l'isola di Kiribati, sugli atolli forse salvati dall'accordo sul clima di Parigi, perché sapete che appunto ci sono zone del pianeta particolarmente a rischio per il riscaldamento climatico. Ma il titolo principale è la nuova rottamazione non dei politici come vuole Renzi, la vecchia classe politica, ma l'addio a vecchi bus, auto e caldaie. Così scrive l'Unità. Ci lasciamo un attimo per la pausa, ci ritroviamo subito dopo. In primo piano. Ancora buongiorno da Giulia Crivelli, e rispondo prima di tutto a un ascoltatore che ha mandato un sms dicendo che anche i bugiardini possono essere molto complicati. Vero, forse idealmente i bugiardini, cioè quei manuali di istruzione, diciamo, delle medicine che ci sono in ogni farmaco, idealmente dovevano essere una guida semplice per persone che medici non sono, cioè sono semplicemente quelli che i farmaci li devono prendere, e nel tempo si sono incredibilmente complicati. Allora speriamo che sia che anche i bugiardini tornino, se lo sono mai stati, a essere semplici, leggibili e di facile comprensione, così come dovrebbero essere i prossimi venturi documenti che ci vengono consegnati quando decidiamo di fare un investimento in banca. Invece l'ascoltatore che dice che devo smettere di leggere solo gli articoli che mi piacciono, non so, dovrei leggere quelli che non mi piacciono? Non credo, insomma, allora a quel punto basterebbe un robot che leggesse o non leggesse niente. Ma passiamo, torniamo sulle prime pagine dei giornali e sulle prime pagine. Il Fatto Quotidiano anche oggi non è esattamente un'iniezione di ottimismo. Smog, la buffonata delle auto a 30 all'ora, inquinano di più. Secondo appunto alcuni esperti, rallentare non necessariamente diminuisce l'inquinamento. La Gazzetta dello Sport ha un'apertura spezzata in due. Da una parte tutto il calciomercato, di cui avete sentito parlare anche tanto qui a Radio 24 nelle trasmissioni sportive, e poi un'intervista di due pagine a Usain Bolt, il grande velocista, perché per la quinta volta viene eletto dalla Gazzetta dello Sport come atleta dell'anno. E in questa intervista Usain Bolt racconta, insomma, i suoi successi del 2015, ma anche le sue speranze per il 2016. La sua carriera non sembra affatto finita. Il giornale: Renzi tassa pure lo smog, multe in arrivo per chi supera i 30 km in città e non abbassi i riscaldamenti. Ai sindaci l'ultima parola. Tra poche ore pioggia e neve ripuliranno l'Italia, resterà la stangata, perché sapete che la maggior parte dei meteorologi prevede intorno all'Epifania appunto un arrivo di pioggia e neve, e questo sarà il modo più semplice per ridurre lo smog. Libero: e se il gufo fosse proprio lui? E qui in copertina c'è una caricatura di Renzi appollaiato su un tronco d'albero, e appunto c'è il suo viso disegnato in modo caricaturale, ha anche due orecchie da gufo. Il pezzo è di Maurizio Belpietro, direttore di Libero. Economia impantanata, immigrazione fuori controllo, clienti delle banche rovinati, perfino inquinamento da record, l'anno nero di Renzi. Il Manifesto titola Cambiamo aria, e come illustrazione oggi sceglie un famoso quadro di Magritte che si chiama Golconda. Ma sicuramente vedendolo molti di voi lo riconoscerebbero. È pieno di uomini, i tipici uomini di Magritte con la bombetta, tutti vestiti di nero, piccoli, grandi, medi, alcuni sospesi nell'aria, e sullo sfondo ci sono delle case. Da pagina 3, lo vedremo magari se abbiamo tempo più tardi, c'è proprio un inserto speciale dedicato al 2015 con tante interviste sull'anno che se ne va, che secondo il Manifesto, che appunto titola Cambiamo aria, ci lascia città irrespirabili. Il governo convoca un inutile vertice delle promesse con sindaci e governatori, ma i soldi per la mobilità sostenibile, per l'edilizia ecologica, per la prevenzione della salute e la difesa dell'ambiente non ci sono. Il patto siglato, quindi, secondo il Manifesto, è un bluff. E l'Italia ignora, così facendo, COP21, la conferenza sul clima di cui appunto abbiamo parlato prima, che si è conclusa a Parigi e dalla quale prende anche spunto Kofi Annan, per ex segretario generale dell'ONU e premio Nobel per la pace nel 2001, che quando era segretario generale dell'ONU fece della battaglia sul clima, sui cambiamenti climatici da scongiurare, una delle sue, appunto, delle sue battaglie di punta. E l'intervento lo trovate a pagina inizia sulla copertina del Sole 24 Ore, come vi dicevo prima. Torniamo sulle pagine interne del Sole 24 Ore, perché tra le buone notizie possiamo dire del 2015 c'è che la nostra borsa italiana, definita anche Piazza Affari, la borsa qui di Milano, è stata la migliore in Europa. Il rialzo complessivo a partire dal gennaio del 2015 naturalmente è stato del 12,57%. Non che le altre borse europee non siano andate bene, perché Francoforte ha comunque guadagnato il 9,56 e Parigi il 9,46. L'analisi in questo caso è di Vittorio Carlini, la corsa di Milano trainata dalle mid-cap. Mid-cap sta per mid-capitalization, cioè non grandi colossi, non grandi aziende, ma medie aziende. Chi vince e chi perde? Atene, ovviamente maglia nera, come ci si poteva aspettare, che ha perso, pensate, il 26%, però ha chiuso in negativo comunque l'anno anche Londra, hanno chiuso in negativo l'anno anche Londra e Madrid, mentre probabilmente New York, lo Standard & Poor's, l'indice Standard & Poor's più importante della borsa di New York, chiuderà in parità. Naturalmente ci sono state ieri, è stata una giornata ancora un po' controversa, poi sapete che nelle ultime due settimane a dettare spesso gli scossoni di borsa è stato anche l'andamento del prezzo del petrolio e ieri infatti, scrive il Sole 24 Ore, nuove tensioni sul greggio hanno indebolito il listino italiano, che però ieri appunto ha chiuso con una in ribasso, ma abbiamo visto poi nel complesso l'anno è stato molto positivo. Un'intervista a proposito anche di quello che verrà all'amministratore legato di Borsa Italiana Raffaele Ierusalmi di Antonella Olivieri, la trovate sempre a pagina 3. Ripartono le IPO, cioè le Initial Public Offerings, i debutti in borsa, ma la Tobin Tax pesa sugli scambi. È difficile capire, dice Raffaele Ierusalmi, il senso di una tassa che penalizza chi investe nelle aziende italiane. Vi dicevo la vicenda delle multinazionali che verranno tassate perché accusate di elusione fiscale negli scorsi anni. La prima è Apple, abbiamo visto ieri 318 milioni deve al fisco italiano. Angelo Mincuzzi ci racconta quali saranno anche le altre multinazionali. Il titolo: il fisco va all'incasso dopo l'intesa fra Apple ed Agenzia delle Entrate, addirittura d'arrivo alla trattativa con Google. E poi a proposito di tasse, anche un aggiornamento su un'altra vicenda che aveva scatenato molte polemiche, quella della battaglia, possiamo chiamarla così, tra il fisco italiano e Dolce & Gabbana, che è una delle poche aziende italiane della moda con ricavi superiore al miliardo di euro, quindi un colosso del settore. Primo round a Dolce & Gabbana sulla detrazione dell'IVA, quindi c'è una vicenda molto complicata che riguarda in particolare il business delle licenze dell'azienda, comunque e che non è conclusa qui, però appunto il primo round all'azienda guidata dai due stilisti Domenico Dolce e Stefano Gabbana. La copertina di Imprese Territori ci dà un'altra buona notizia. Ricorderete forse due giorni fa i dati positivi sul settore della chimica, uno dei più importanti settori manifatturieri italiani. Ieri la manifattura in generale, con l'analisi di Paolo Bricco, per il quale che prevede comunque per il 2016 un anno di ripresa. Oggi segnali di ripresa per il sud, questo è il titolo scelto dalla copertina del dorso di Imprese e Territori, che fa riferimento alle stime di ieri di Confindustria, con un PIL per il sud a più 0,2 nel 2015, che potrebbe salire al più 1% nel 2016. Il problema è sempre quello degli investimenti, di cui parla anche Alessandro Laterza, appunto di Confindustria Sud. Ora devono tornare a correre investimenti e occupazione. Un grande problema irrisolto, quello del nostro sud, che non riesce a correre allo stesso passo, non è mai riuscito a correre allo stesso passo del nord e del centro del paese. E poi guardando a un breve orizzonte, tutto sommato, quando le borse riapriranno il 4 di gennaio, e ci sarà il debutto in borsa della Ferrari scorporata da FCA. E Laura Galvani quindi ci racconta appunto Ferrari pronta la mappa dei nuovi soci, lunedì il debutto a Milano, lunedì 4 gennaio, il prezzo verrà fissato durante l'asta di preapertura, parte la scissione appunto da FCA, Fiat Chrysler Automobiles, questa è la sigla, chi ieri sera era socio del Lingotto da oggi ha diritto a un'azione della Rossa ogni 10 possedute. E un'analisi sul mercato in generale dell'automobile, un approfondimento sulle prospettive del mercato dell'automobile di Simone Filippetti, che ha parlato con Paul Wilcox, che è presidente per l'Europa del gruppo Nissan. Mercato tra rischio Russia e auto elettrica. Questi sono, la Russia, sapete, è un po' uno dei grandi malati del mondo dal punto di vista economico, sono crollati i consumi interni, sono crollate le esportazioni di tantissimi settori verso la Russia, quindi anche di quello delle automobili. E poi l'altra incognita, appunto, secondo Paul Wilcox, l'auto elettrica, che abbiamo sentito invocare in tutti i modi possibili e immaginabili in questi giorni come qualcosa, come una specie di che ci salvi dallo smog. Probabilmente non è esattamente così, non è così facile passare tutti all'auto elettrica. In ogni caso è un tema su cui tantissime compagnie automobilistiche stanno lavorando. Vi ricordo ancora il manuale di educazione finanziaria, anche perché veramente è un dorso estraibile, potete appunto staccarlo dal giornale e tenerlo, dal Sole 24 Ore, e il focus di oggi è sui risarcimenti, sui prodotti tossici, risarcimenti minimi, e Ci spiega Giorgio Costa che dalla seconda metà del 2016 sarà operativo il nuovo organismo di mediazione della Commissione, si chiama Camera di Conciliazione della Consob, e pensate che solo nel 2015 sono arrivate richieste per 35 milioni, ma i clienti poi sono stati risarciti meno di 54 mila euro. E poi da domani, 1 gennaio, questa è l'apertura del dorso di norme e tributi, da domani sanzioni fiscali ridotte. La legge di stabilità ha anticipato l'entrata in vigore del nuovo sistema che rivede le penalità per i contribuenti. Le nuove regole si applicano anche a contestazioni ante 2016 non ancora definitive. Trovate tutto con schemi riassuntivi e indicazioni pratiche alle pagine 36 e seguenti tutto del Sole 24 Ore. Passiamo al Corriere della Sera per un approfondimento sul Movimento 5 Stelle. Ieri avevamo detto che c'era nell'aria un'altra espulsione dopo quella di 2 giorni fa della senatrice accusata di non aver versato parte del suo stipendio, come prevede lo statuto del Movimento 5 Stelle, per questo fondo che poi viene ciclicamente devoluto alle piccole e medie imprese. Adesso è confermata l'espulsione del sindaco di Gela, anche lui accusato di non aver versato come da statuto parte del suo stipendio al fondo, ma è anche accusato di essere stato troppo filo ENI per alcune scelte poi appunto di impianti dell'ENI che sono stati ai quali è stata data l'autorizzazione, ma con il parere contrario del Movimento 5 Stelle, da questo sindaco che però al Movimento 5 Stelle, il sindaco di Gela, appartiene. L'articolo di Alessandro Capponi lo trovate a pagina 13 del Corriere della Sera. E poi un fatto di cronaca che il Corriere della Sera mette anche in prima pagina, perché abbiamo parlato tanto, ne avrete sentito parlare sicuramente, della morte di una mamma con la sua bambina nella notte di Natale a Torino. Ce ne sono state poi però anche altre due, ce n'è stata una a Verona e un'altra dopo 2 giorni a Bassano del Grappa. In questo caso è una ragazza di 35 anni, Marta Lazzarin, di Bassano del Grappa appunto, un'altra morte in sala parto, e i medici hanno spiegato che è stata uccisa da un'embolia. Chiara Del Frate ripercorre i 3 casi, mi sembra particolarmente significativa l'ultima parte, non ci sono inchieste aperte su questo caso. In tutti e 3 i casi sono morte sia la mamma che i bambini. E vi leggo l'ultima parte. Ma le cifre che cosa ci dicono in proposito? Chiede Claudio Del Frate a Mauro Bisacca, che è professore di clinica ginecologica all'Università di Milano, che risponde: dicono che l'Italia è il paese con la mortalità più bassa d'Europa per le madri e che sotto certe cifre sarà impossibile scendere, ma dicono anche che l'età media delle partorienti sta aumentando e questo al contrario può crescere molti fattori di rischio. Quindi purtroppo, per quanto siano eventi tristissimi e che colpiscono moltissimo, in certa misura parrebbero inevitabili. Poi ci saranno sicuramente anche dei casi di malasanità o di omicidio colposo, non parrebbe il caso di questi ultimi due. Torino è ancora tutto da accertare, sapete che è stata fatta l'autopsia sia alla madre che alla bambina, ma non è stata risolutiva, quindi adesso si aspettano gli esiti e ci vorranno 2 mesi degli esami istologici e tossici. A proposito di smog, certo ci sono tutti i dati sui valori delle PMI eccetera, ma da Repubblica pagina 9 vi segnalo un reportage di Ian Ermeletti, a piedi sul fiume Po, deserto di sabbia. Ecco l'altra faccia dell'inverno a secco. Il livello dell'acqua è sceso anche di 5 metri, le barche ormeggiate sull'erba e ora con il terreno indurito potrebbe bastare anche una sola pioggia per causare piene e inondazioni. E torniamo a un altro grande tema irrisolto in Italia, che è quello del dissesto idrogeologico e appunto di come questi cambiamenti climatici poi colgano impreparati anche, per esempio, anzi soprattutto quando si tratta dei letti dei grandi fiumi. Ci lasciamo però un attimo per gli aggiornamenti sul traffico, ci ritroviamo per l'ultima parte della rassegna. In primo piano. Ancora buongiorno da Giulia Crivelli, ringrazio tutti gli ascoltatori che ci stanno mandando gli auguri e in particolare l'ascoltatore che dice auguri soprattutto a chi sta dietro le quinte di Radio 24, verissimo, in realtà auguri a tutti quelli che stanno dietro le quinte di tantissime attività e che non vengono mai menzionati a sufficienza, comunque naturalmente auguri ricambiati da tutti noi. Eravamo sulle pagine interne dei giornali e vi segnalo dalla Stampa un articolo interessante perché spiega che da domani, cioè dal 1 gennaio del 2016, spariranno 40 comuni. quanto abbiamo parlato, quanto ne parla anche Alessandro Milan, sempre dell'abolizione delle province, annunciata e mai poi messa in pratica, ma ci sono anche questi progetti di fusioni di comuni che devono razionalizzare le spese, il cui scopo sarebbe quello di razionalizzare le spese e gestione dei servizi. Sono interessati 63 municipi, ma l'accorpamento delle funzioni, obbligatorio per i più piccoli, resta pieno di difficoltà. L'esempio, il caso, spiegato da Giacomo Galeazzi, sempre a pagina 11 della Stampa, è quello della Nuova Pescara. Dalle colline all'Adriatico nasce appunto la Nuova Pescara, un modello da seguire. La città abruzzese ingloberà i due paesi limitrofi e nella neonata area amministrativa ci saranno oltre 150.000 abitanti. Lo scopo appunto è sempre quello di razionalizzare la spesa. A proposito di spesa, un'intervista sul Messaggero, pagina 9, di Carla Massi al ministro della Salute Lorenzin. I tagli, sia la corruzione, nessuno resterà senza cure. Credo che anche nel 2016 saranno molte le questioni sulla tavolo del ministro Lorenzin. Sapete che poche settimane fa c'è stato anche uno sciopero di tutti i medici di base contro alcune nuove norme introdotte dal ministro Lorenzin. Sicuramente dobbiamo darle atto che sta conducendo questa battaglia contro gli sprechi. Secondo la ministra, lo ribadisce al Messaggero, superano i 13 miliardi ogni anno e se si riuscisse veramente a risparmiarli, questi risparmi verranno reinvestiti nella sanità, garantisce. E poi garantisce anche via i manager che sbagliano. Altra questione, ne abbiamo parlato anche nei giorni scorsi, irrisolta, quella del fatto che molto spesso i manager della sanità, cioè chi è a capo di ASL o di singoli ospedali, sia in realtà scelto secondo logiche politiche, il che è contrario a ogni buon senso, perché naturalmente gestire un ospedale non è vuol dire fare il medico, ma vuol dire fare anche tante altre cose, però sicuramente di sanità bisogna capire più che di logiche politiche. E poi dal Messaggero, perché non ci si crede, siamo tornati sulla questione dei vigili a Capodanno. Soltanto 400 saranno in straordinario, il Capidoglio ne aveva previsti 1120, ma in strada saranno appunto meno della metà. Intere zone saranno scoperte. E domani per l'Angelus del Papa solo 12 saranno in piazza San Pietro. Quindi rischiamo che succeda quello che è successo già l'anno scorso con, lo ricorderete forse, questo che poi divenne un vero e proprio scandalo dei vigili che si erano dati malati, avevano avuto questo impellente bisogno di andare a donare il sangue proprio una cosa per la quale è obbligatorio dare il permesso proprio nella notte di Capodanno. Ma ci spostiamo sulle pagine interne dell'Avvenire che, come molti giornali fanno, riassume il 2015 partendo dalle foto che più ci hanno colpito del 2015, ma focalizzandosi in particolare su quelle dei profughi. Nelle foto la coscienza del dramma. Aylan e gli altri, Aylan naturalmente è il bambino, lo ricorderete, il bambino siriano morto in settembre, aveva circa 3 anni e le cui foto appunto di cadavere su una spiaggia hanno fatto davvero il giro del mondo su tutti i media possibili e immaginabili. Scrive l'Avvenire, nell'ultimo anno immagini e video hanno avuto un ruolo significativo nel condizionare l'opinione pubblica e la politica sul problema dei migranti. I 28 stati dell'Unione Europea si sono divisi come non mai su accoglienza e sicurezza, gli errori da non ripetere. Quindi, prendendo spunto appunto dalle foto, un auspicio perché nel 2016 si trovi anche un pochino più di accordo sulle politiche sull'immigrazione, che devono essere comunitarie, come tante volte si è detto. A proposito di bilanci, l'Avvenire coraggiosamente parla di altri bilanci non positivi, ma che è giusto fare, per esempio quello delle persone italiane rapite ancora in mano a terroristi o a gruppi di malavitosi. Il titolo, quei 6 italiani ostaggi del terrore. L'anno si chiude con i 4 tecnici rapiti in Libia, Dall'Oglio, padre Dall'Oglio in Siria e ancora un volontario nelle Filippine. Un altro, vi dicevo, la notizia che viene richiamata in prima pagina sull'Avvenire è quella del cosiddetto incubo del califfato balcanico, che sarebbe appunto sulla soglia dell'Europa. Secondo questo reportage di Nello Sclavo, che è andato in Macedonia, in Kosovo, Bosnia e Albania cresce l'influenza dei jihadisti. Poi una storia tristissima su Libero, raccontata da Libero, è la storia del figlio di Sergio Staino, il vignettista storico dell'Unità, si chiama Michele Staino. che è a processo per stupro. Il figlio coautore di Staino, perché Sergio Staino ha una grave malattia agli occhi, quindi il figlio lo aiuta a ancora fare i suoi disegni che appaiono tutti i giorni o quasi sull'Unità, è accusato dalla compagna di averla picchiata e violentata. Lui nega una sua percezione, risponde: mai avuto condotte di questo tipo. Veramente una storia tristissima, leggendo gli stralci sia delle dichiarazioni dell'ex compagna sia sue. È molto emblematica di come appunto le storie di violenza sulle donne vengano poi viste soprattutto da chi ha accusato di averle fatte come qualcosa che è stato percepito male. E nella stessa pagina viene data da Libero anche l'ultimo aggiornamento sul caso Cucchi, perché sono venute fuori delle intercettazioni in cui uno dei carabinieri che aveva arrestato il ragazzo tossicodipendente che poi è morto mentre era in custodia a Roma avrebbe raccontato alla moglie di averlo appunto picchiato, e la moglie poi a sua volta l'aveva raccontato in queste telefonate intercettate. Sul giornale invece c'è un'intervista a Michele Ainis, il costituzionalista, che tra l'altro è abbastanza critico con la riforma costituzionale sulla quale avete sentito anche nella conferenza di fine anno Matteo Renzi, di cui abbiamo parlato tanto ieri. Matteo Renzi dice di giocarsi proprio il suo futuro, la sua reputazione politica. Ecco, allora Michele Ainis, questa intervista concessa a Luigi Mascheroni: vi spiego tutti gli errori commessi da Renzi e perché si voterà presto. Quindi secondo Michele Ainis non verrà rispettata la naturale scadenza del 2018 per le prossime elezioni, ma si andrà a elezioni anticipate. E poi Oscar Grazioli, che sul giornale si occupa spessissimo, quasi sempre lui a scrivere di questioni che riguardano gli animali, questa anche qui una storia molto triste: i gadget della tortura, lampade e gioielli con meduse sigillate, bestiole ancora in vita messe negli orologi, e la risposta di un'azienda a chi protesta è stata: sono pesci che ne sanno. I pionieri purtroppo in questo campo di appunto giochi / torture che coinvolgono animali di vario genere sono i cinesi, però anche negli Stati Uniti e in Francia si cominciano a produrre gadget di questo tipo. Alleggeriamo un pochino il tono degli articoli da segnalare. Dal Foglio, la storia del Monopoli, che compie 80 anni e mantiene il suo appeal, specie durante le feste. Sapete che adesso ne esistono anche, i miei nipoti ce l'hanno, mi hanno molto stupito, ne esistono anche versioni con delle pedine elettroniche. Secondo il Foglio, Massimiliano Trovato, che ci racconta appunto la storia di questo gioco, è l'adrenalina degli affari con gioco e gioco economico che si rincorrono. E trovate appunto questa storia gustosa del Monopoli nelle pagine interne del Foglio di oggi. Poi oggi, come ogni giovedì, c'è questo supplemento molto strano della Stampa che si chiama Origami. Si chiama così perché se lo vedete sembra piegato, poi lo potete aprire e all'interno ci sono tantissimi articoli. Oggi ce ne sono molti anche che riguardano il futuro. Per esempio vi segnalo quello di Vittorio Sabadin: quanti ne sanno gli autori di Star Trek, quindi non Star Wars per una volta, ma Star Trek, quindi quanta realtà c'è poi nelle ricostruzioni nelle fantasie fantascientifiche degli autori dei film di fantascienza. E a proposito invece di Star Wars, una storia qui anche in realtà un po' triste che viene dall'America, la racconta Stefano Bartezzaghi: Star Wars, insulti social alla principessa Leia è invecchiata male, interpretata da Carrie Fisher, che è un'attrice che ormai appunto ha più di 60 anni. È stata talmente criticata per la sua brevissima apparizione anche in questo ultimissimo episodio che si è sentita in dovere di replicare su Twitter: per favore smettetela di parlare di questo. E conclude Stefano Bartezzaghi: per gli uomini si diceva diverso, perché naturalmente nessuno ha detto niente a Harrison Ford, che peraltro non ha più l'apparenza di un ragazzino, come è giusto che sia, perché anche lui ha superato da un po' i 60. Non mancheranno i tipici pareri scientifici che legano avvenenza e desiderabilità alla fecondità, ragione per cui l'uomo resterebbe attraente mentre la donna, si sa, declina. Ma allora perché uno star system invecchiato democraticamente, uomini, donne e soprattutto idee, ripesca le mitologie del passato? passato, se continuerà la sequela dei sequel, la questione continuerà a riproporsi. Ricordiamo che questo è Star Wars numero 7. Speriamolo, così un giorno o l'altro l'intrattenimento globale delle grandi produzioni e del cinismo industriale dovrà confrontarsi con quello che autori, critici, studiosi, nonché qualsiasi spettatore capace di guardare, riconoscono come il vero tema delle comunicazioni di massa: la vita effimera del corpo umano e della sua bellezza. Ed era un po' l'ultima segnalazione che riesco a farvi oggi, però i giornali veramente sono ricchissimi. La Stampa ha uno speciale, come vi dicevo, di 20 pagine sul 2015, anche La Repubblica ha tantissimi approfondimenti, il Corriere addirittura domani distribuirà uno speciale in alcune piazze che si chiama Buongiorno. Insomma, fatevi tenere compagnia, anche il Giornale ha uno speciale sui personaggi del 2015, fatevi tenere compagnia dai giornali, e noi poi lo faremo concretamente, non domani, perché domani i giornali non sono in edicola, ma sabato. Ne approfitto davvero per augurarvi di chiudere bene questo 2015, iniziare altrettanto bene il 2016 e continuarlo ancora meglio. Un grazie a Peter Bescapè in regia, ancora una buona giornata da Giulia Crivelli.